9 in punto, la versione di Oscar. Buongiorno cari ascoltatori, un buon 30 dicembre da Oscar Giannino. Torniamo oggi a occuparci di un tema che già avevamo sollevato, l'ho trattato Milan poco prima di Natale, nella puntata del 21 dicembre, perché ci sembra importante approfondire ulteriormente. È un tema su cui all'indomani della pubblicazione sul sito della Corte dei Conti del rendiconto annuale del rimborso elettorale ai partiti politici, ed è questo che ci occuperemo oggi, alcuni giornali, tra cui il Corriere della Sera, trassero da quel rendiconto degli elementi di riflessione. Altri giornali in questi giorni sono tornati su quell'argomento, ieri Repubblica, altri quotidiani, e ci sembra opportuno riflettere a fine anno intorno a queste cifre, intorno a questo meccanismo. Lo facciamo pacatamente perché è ovvio che si tratta di un tema delicato, perché tocca una questione che era stata risolta da un referendum popolare che vide un'altissima partecipazione e una netta vittoria del no al finanziamento pubblico dei partiti. E dopo quel referendum i partiti, nel rispetto formale dell'esito di quel referendum, hanno introdotto un altro principio, quello per il quale dal 1993 non c'è più il finanziamento pubblico dei partiti, ma è stato introdotto un regime di rimborso elettorale, per il principio che le spese sostenute per la politica sono comunque un costo della democrazia. I partiti sono, ve lo ricordo a tutti, strumenti costituzionalmente riconosciuti all'articolo 49 come strumenti in cui possono liberamente associarsi i cittadini per concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico. Però sapete e ricordiamo che l'articolo 49 non è mai stato poi regolamentato, attuato con una legge ordinaria che assicuri un preciso status ai partiti, che oggi restano associazioni private. E questo quindi, con una lunga tradizione che alla Costituente aveva visto Togliatti, i comunisti da una parte, ma anche i democristiani, respingere proposte come quella del grande costituzionalista Costantino Mortati, che aveva proposto dare una più precisa formulazione a quell'articolo 49 della Costituzione che riguarda appunto i partiti si sono sempre difesi, i loro interna corpori sono associazioni private, e si arrivò agli anni 70 al principio del finanziamento pubblico, poi caduto per referendum, adesso siamo a questo rimborso elettorale. Ecco, la Corte dei Conti nel suo rendiconto annuale ci dà delle cifre molto precise. È un documento complesso, 247 pagine, ho citato all'inizio e vi ripeto qual è la cifra che complessivamente ammonta sul totale dei rimborsi elettorali per le diverse consultazioni incassate dai partiti negli anni dal 1994 al 2008. Si tratta complessivamente di 2.253.612.233,79 euro, ed è la somma di 1.070 milioni per le elezioni politiche negli anni dal 94 a oggi, di 323 milioni per le consultazioni regionali, 356 milioni per le consultazioni europee. È una cifra considerevole. I giornali in questi giorni si sono soprattutto riferiti al rimborso per le spese delle politiche 2008. Le sole politiche del 2008 ci sono costate in rimborso ai partiti 503 milioni. E la riflessione che hanno fatto tutti, traendola da questo rapporto della Corte dei Conti, è di quanto queste spese siano gonfiate, perché in parole povere il meccanismo di rendicontazione a cui sono obbligati i partiti è così elastico che in parole povere si ottiene un contributo pari a 4 volte più o meno ciò che effettivamente i partiti dichiarano di avere speso per le campagne elettorali. E quindi, in altre parole, vi è la conferma che il regime di rimborso elettorale ha finito per sostituire il finanziamento pubblico ordinario alle spese di gestione dei partiti, che era stato abolito per finanziamento pubblico. Ora, poiché siccome il tema in realtà è molto delicato, perché una delle anomalie italiane in questi ultimi anni è stata quella di dover fare i conti con un sistema che con il rimborso elettorale in realtà sostituiva il finanziamento che era stato abrogato, e dall'altra parte con un discorso pubblico molto delicato che riguarda l'anomalia italiana, perché è notissimo che i partiti dell'opposizione, i partiti che non si riconoscono, insomma, nel PDL di Silvio Berlusconi, hanno sostenuto da 15 anni a questa parte: guardate che nella politica italiana c'è un'anomalia, c'è un signore che, ricco in proprio perché un imprenditore di successo, può permettersi di fondare, finanziare e pagare un partito ai propri alleati, noi no, e questo è ciò che non consente alla democrazia italiana di marciare su gambe solide, se non si danno appunto strumenti e sostegni anche alla politica. C'è un problema della costo politica trasparente, c'è in questo paese. È anche vero che alle norme che attualmente presiedono a questa forma di contributo elettorale che surrettiziamente sostituisce in maniera molto munifica rispetto a tutti gli altri paesi europei, noi abbiamo una politica che a livello centrale costa 3-4 volte rispetto alla media spagnola, francese, il doppio di quella tedesca, ricordo che in Gran Bretagna vanno solo 4 milioni di pounds all'opposizione, quindi ci costa molto di più. Di fronte a questa caratteristica un po' anomala della politica italiana, e dall'altra con leggi che nel 2002-2006, lo vedremo nel corso della trasmissione, la politica si è decisa bellamente in amplissima convergenza, con pochissime eccezioni radicali, di estendere molto significativamente con due interventi nel 2002-2006 l'ambito e l'ammontare di questi rimborsi elettorali, moltiplicandoli per 5. Ecco, questa è stata la dimensione. Conclusione dell'introduzione: abbiamo letto in questi giorni che nella finanziaria 2010 si introducevano alcuni nuovi, modesti tagli alla politica, ma pur apprezzabili e significativi. Si parlava di una diminuzione del tra il 20 e il 22% del totale dei consiglieri comunali, comunità montane, eccetera, eccetera, a cominciare dal 2010. Abbiamo letto ieri sui quotidiani che il ministro Calderoli si sta prodigando per il rinvio di questa norma. Del resto, abbiamo sentito proprio ai nostri microfoni Chiamparino, il presidente dell'ANCI, accusare il governo di aver introdotto questi tagli in maniera demagogica perché non erano concordati, e quindi dice che il governo tagli i suoi di costi invece di venirci a tagliare quelle dell'autonomia. Risultato: i costi della politica in Italia, dopo tante parole, tante indignazioni, tanto successo di chi giustamente ne documenta lo scandalo, sono sempre incomprimibili. Questa fine della mia introduzione. Vediamo però di fare un dibattito dando anche giusto peso a chi è preoccupato dei costi della politica, perché se non si trova una soluzione trasparente e adeguata, e la politica poi se li procura altrove in maniera non trasparente, violando le regole, violando i codici, e questo noi non lo vogliamo, ovviamente, comunque la pensiamo politicamente, ma ripeto, facciamolo in maniera non troppo demagogica, perché io per primo ci guadagnerei a dire che schifo queste cifre. In effetti le modalità con cui si arriva a queste cifre sono molto discutibili. È anche vero però che se non si dà una soluzione trasparente, solida e in linea con i costi più bassi degli altri paesi europei, la politica poi trova le sue modalità improprie. Allora, chi sono i nostri ospiti con cui affronteremo i diversi corni di questo delicato problema, chiedendo a voi poi di intervenire? Sono innanzitutto Ugo Sposetti. Buongiorno, onorevole Sposetti. Buongiorno. Ugo Sposetti è ex tesoriere di grandi formazioni della sinistra, ma io oggi l'ho chiamato lui perché negli anni ho imparato a apprezzare e a rispettare la ruvida, esplicita sincerità con cui Ugo Sposetti ha sempre tentato di affrontare il tema del finanziamento della politica. Cioè non è un ex tesoriere di partito, di quelli che tenta di mentire ipocritamente, eccetera. Ha sempre detto: guardate, io ve lo dico chiaro, per un paese con una democrazia che funzioni, piuttosto che far finta di piegarsi alla demagogia di questa modalità, io reintrodurrei il finanziamento ordinario ai partiti. E mi sembra una maniera esplicita di affrontare il problema, e per questo chiedo per lui anche il rispetto, lo dico esplicitamente. Si può essere d'accordo o meno, però Ugo Sposetti è uno di quelli che non gira intorno al problema. Poi Massimo Teodori, buongiorno Teodori. Buongiorno. Che come saggista e poi come politico si è battuto per una riforma del finanziamento con principio anglosassone, glielo faremo approfondire, cioè il principio di libertà di donazione, totalmente diverso rispetto a tutti i sistemi italiani. E poi abbiamo Sergio Rizzo, uno dei grandi protagonisti del Corriere della Sera, dell'instancabile documentazione di come questo procedimento di aggiramento di regole a proprio vantaggio i partiti lo abbiano condotto dopo il referendum di abrogazione per moltiplicare ed estendere questo meccanismo. Buongiorno Rizzo. Buongiorno, grazie. Rizzo, cominciamo da lei, che, a cui rompiamo sempre le scatole. Rompiamo sempre le scatole perché lei ha un compito, quello di ricordarci che non è vero che non c'è un'alternativa al fatto che poi le spese aumentano sempre e sono incomprimibili mentre vengono annunciate di volta in volta, compresse o che verranno compresse. È vero che un'alternativa c'è, ce li dica di sì, per favore, lo so, si annoierà, ma ce lo dica. No, ma io sono d'accordo su un principio fondamentale, che la politica ha un costo e che questo costo deve essere sopportato dai cittadini. In una democrazia come quella italiana, che è molto simile come, diciamo, organizzazione a quelle altre europee, la Francia, la Germania e la Spagna hanno un finanziamento pubblico anche loro, naturalmente. Il problema è uscire da questa ipocrisia. Intanto non chiamiamoli più rimborsi, perché, come abbiamo visto, non sono rimborsi. E poi soprattutto bisogna che, se accettiamo il principio che la politica vada finanziata in qualche modo dai cittadini, però la politica deve obbedire anche a delle regole, e queste regole devono essere introdotte. Cioè, la via è quella di dare attuazione all'articolo della Costituzione che, diciamo, qualifica i partiti come l'elemento fondamentale della rappresentanza democratica, per esempio stabilendo un nesso tra il comportamento di questi partiti, il funzionamento di questi partiti e il finanziamento pubblico. Faccio un esempio: è chiaro che un partito che non sottopone la propria leadership a una verifica periodica attraverso un congresso, per esempio, non si sottopone a delle regole di verifica che sono quelle che poi darebbero diritto ad avere giustamente un finanziamento pubblico. Lo stesso un partito che non rispetti determinati rapporti al proprio interno, diciamo, di parità di genere, come avviene in Francia, dovrebbe, secondo me, essere penalizzato in qualche modo nel finanziamento pubblico. Ricordiamo che in Francia chi non rispetta i partiti che non assicurano alle donne una certa rappresentanza all'interno dei propri organi dirigenti, hanno una penalizzazione economica, insomma. Secondo me la strada è questa, la strada è quella di introdurre delle regole, partendo proprio da quell'articolo della Costituzione, che renda trasparente il rapporto tra, come dire, il funzionamento dei partiti e il finanziamento pubblico. Questa è l'unica strada, secondo me, non ce ne sono altre. Sposetti, in che cosa, dal suo punto di vista, tutto questo dibattito è falsato da un'insopportabile ipocrisia, diciamo così? No, diciamo, è falsato da un ragionamento, perché la politica italiana, il Parlamento, il legislatore non è stato in grado in questi 60 anni di mettere mano all'attuazione dell'articolo 49, come lei, direttore, ha accennato all'inizio. Io condivido in pieno il suo ragionamento e le sembrerà strano, ma condivido anche il ragionamento che ha fatto poc'anzi Sergio Rizzo: la politica ha un costo, uscire dall'ipocrisia e le regole. Ora vediamo un attimo, l'articolo 49 dice testualmente: tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale. È un'affermazione forte. Discussione che ci fu all'Assemblea Costituente è una discussione di grande valore, lei ha ricordato, ma di grande anche diciamo, prospettiva. Lei ha ricordato i protagonisti di quel dibattito, che non sono, diciamo, peones, sono in quel dibattito, su quell'articolo, stranamente si concentrano gli interventi dei maggiori protagonisti dell'Assemblea Costituente e della vita della Repubblica Italiana dei successivi 40 anni, 30 anni, 40 anni. Quindi il problema è costo della democrazia, costo della politica, come si affronta. Ora, l'idea uscire dall'ipocrisia, perché è giusto questo, il partito vive, secondo uno legge gli articoli dei giornali dopo la Corte dei Conti, il partito vive solo per la campagna elettorale, poi scompare e poi riemerge. È chiaro che i costi per una campagna elettorale non sono solo quelli dei 60 giorni della campagna elettorale, altrimenti noi non avremmo una democrazia così come l'abbiamo. Allora, io penso che Io sto lavorando, lo dico per la prima volta, sto lavorando a un testo, a una proposta di legge, ce ne sono già tante depositate. Comunque, io sto lavorando a una proposta di legge che è sulla linea di Sergio Rizzo. Vi sembrerà strano, perché anche a Sergio Rizzo, ma in cui si stabiliscono regole di vita interna dei partiti, di come si scelgono le candidature, di come partecipano, lui ha parlato della rappresentanza di genere, è corretto, questo è una rappresentanza. In Italia c'è stato un primo timido tentativo, e nella legge per le europee, se alle europee non c'è una partecipazione di donne, ti tolgono una percentuale di rimborsi elettorali, e ha funzionato. Quindi nel momento in cui si stabiliscono le regole, io ritengo che la democrazia italiana ne abbia solo un guadagno. Il modello, visto che c'è Teodori parla del modello anglosassone, io ritengo che, personalmente ritengo, quindi questa è una valutazione molto personale, il modello anglosassone in Italia non può funzionare per la storia di questo paese. Io vedo il modello tedesco, naturalmente l'ha portato alla situazione italiana. E poi approfondiamo un secondo, finiamo il primo giro, approfondiamo che cosa può voler dire questo modello tedesco. Quindi la questione può diventare regolamentare, dare quindi strumenti pubblici anche rispetto alla vita interna, all'equilibrio delle scelte, alla democrazia della vita interna dei partiti, e in qualche modo però tornare a quel punto a un principio di finanziamento ordinario, perché appunto i partiti non sono, per così dire, dei sommergibili che vengono riutilizzati solo per la campagna elettorale per poi essere liquidati. Non sono più neanche i vecchi grandi apparati dell'epoca ideologica, ma comunque i partiti devono vivere ordinariamente. Teodori, questo ragionamento in che cosa non la convince? Ma innanzitutto io vorrei partire da due premesse. Primo, è vero che la politica ha un costo. Secondo, il denaro per la politica è un elemento essenziale della qualità della democrazia, cioè non è un fatto esterno, aggiuntivo, ma è un fatto che qualifica anche che tipo di democrazia c'è. Allora, qual è il difetto maggiore dell'attuale sistema italiano che è stato introdotto nel 74 e poi è andato aumentando spropositamente in 35 anni? I difetti sono sostanzialmente tre. Primo, si creano all'interno dei partiti dei gruppi di potere che sono quelli che ricevono il finanziamento pubblico, quindi è un elemento di distorsione della vita stessa dei partiti. Chi ha il denaro, cioè chi riceve il denaro, in realtà ha un potere all'interno del partito, e noi vediamo proprio in questo periodo che ci sono alcuni partiti, non faccio i nomi, in cui chi incassa in realtà poi è padrone del partito. Seconda questione, si creano dei partiti fasulli, cioè che esistono non in base al consenso popolare, ma in base al fatto che ricevono del denaro dallo Stato. Se non ricevessero quel denaro praticamente non esisterebbero, e quindi questa è un'altra maniera per falsare la democrazia. Terzo, tutti noi paghiamo tutti i partiti, nel senso che ognuno di noi paga anche la maggior parte dei partiti che avversa, che non gli stanno bene, invece di pagare quelli che gli stanno bene. Allora, c'è un'alternativa che non è quella di togliere il denaro ai partiti, ma di darglielo in altra maniera. E come? Il finanziamento volontario dell'attività politica. Io 10 anni fa ho scritto un libro, il primo che è stato scritto in Italia, denso di dati, che si chiama appunto Soldi e partiti, quanto costa la democrazia in Italia, in cui c'era una proposta di legge che io elaborai insieme a Beniamino Caravita, che era fondato essenzialmente su alcuni elementi. La prima questione è finanziamento volontario, sia da parte delle persone fisiche che da parte delle persone giuridiche, a partiti, movimenti e candidati. Secondo, deducibilità entro certe soglie del finanziamento che la persona giuridica o la persona fisica dà al partito, al movimento o al candidato o a chi vuole lui. Terzo sistema, un sistema di soglie sia nel dare che nel ricevere, per fare in modo che non esistano i partiti finanziati esclusivamente dai grandi magnati e via di seguito. Quarta questione, creazione di un registro di partiti e movimenti, naturalmente con una grande trasparenza. È un sistema che può funzionare insieme a quello di un vero rimborso spese da dare effettivamente ai candidati, cioè a coloro che sostengono le spese o ai partiti che sostengono le spese. Un sistema così molto complesso in realtà non toglie i soldi alla politica, ma glieli dà scegliendo, cioè io Massimo Teodori voglio dare un tot somma al tale partito, al tale candidato, al tale movimento, alla tale iniziativa, glielo posso dare, e lo Stato facilita tutto questo creando una deducibilità fino a una certa soglia. Questo è un sistema che potrebbe essere sperimentato e che soprattutto evita le gravi distorsioni per la democrazia che oggi avvengono. Sono d'accordo. Io sono molto d'accordo, naturalmente non faccio il semaforista con questa impostazione fondata sulla libera scelta, certo, a fianco però di una trasparenza esplicita di impegni e di garanzie, perché la vita interna dei partiti è altrimenti una cosa che viene... Allora, stop a questo primo giro. Adesso facciamo un po' di messaggi pubblicitari, poi le vostre telefonate. Quando Teodori e quando Sposetti si riferivano ad alcune delle contraddizioni, faccio ancora qualche cifra per chi non è troppo esperto e chi è in ascolto. Per come funziona oggi la legge, significa che ovviamente io do un rendiconto e poi prendo a prescindere dal rendiconto. Cosa vuol dire? Che per le elezioni politiche del 2007, per esempio, PDL, il Popolo della Libertà, dichiara di aver speso 53 milioni, però ne incassa 206, perché naturalmente è in proporzione ai voti, mica alle spese che dichiara di aver sostenuto. Il PD, peggio mi sento, dichiara di aver speso 18 milioni, ne prende 180 milioni. L'Italia dei Valori dice che ha anticipato 3 milioni e poi ne prende 21. L'UDC la stessa cosa, dice di aver speso 15 milioni, ne prende 26. Che relazione c'è? Nessuna. Come voi potrete capire, significa che poi ciascuno spende quello che vuole, perché la rendicontazione, la Corte dei Conti dice nel suo rapporto, piantiamola lì di spendere i soldi, per cui noi dobbiamo far finta di controllare rendicontazioni che non hanno nessuna congruità e nessuna attendibilità, e noi dobbiamo pure passare il nostro tempo come giudici della Corte dei Conti a far finta di vedere queste carte, perché tanto non contano niente rispetto al fatto che il criterio per dare i soldi è un altro. Potrei continuare a lungo da queste 247 pagine di rapporto che io diffonderei nei licei, a dire la verità, perché i cittadini italiani capiscano cosa possono essere le contraddizioni di normare un punto che è lo stesso poi dal quale dipende il tema di cui ci siamo occupati prima nel nostro sondaggio. Se a oggi, a 15 anni di distanza, ancora gli italiani non hanno un giudizio un pochino più equilibrato e composto e si dividono di fronte a un nome come Bettino Craxi, è per la stessa ragione, perché non abbiamo trovato una risposta composta al problema dei costi della politica e di meccanismi trasparenti per consentire alla politica di avere sì un suo costo, ma di dare anche garanzie di come democraticamente sceglie all'interno dei partiti. Pubblicità. 9 in punto. La versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, direi di cominciare con la telefonata degli ascoltatori. Comincerei con Marco da Roma. Prego Marco, buongiorno. Buongiorno Oscar a tutti. Allora, l'idea parte da questa considerazione. La maggior parte degli italiani dice: non mi interessa di politica, fanno tutti schifo, punto. E poi corrono a dare soldi a associazioni, contributi di vario genere. L'idea è questa: è obbligatorio versare un contributo ai partiti in base al proprio reddito, e in qualche modo ognuno decide a chi, di volta in volta, con delle scadenze annuali, versare questo contributo. Potrebbe essere annualmente, semestralmente, non importa. Se uno non vuole veramente darlo a nessun partito, lo può dare a una delle organizzazioni, associazioni benefiche, magari gestite dallo Stato, e in questo modo ha questa possibilità. Questo che vantaggio avrebbe? Allora, prima di tutto, la politica lo potrebbe approvare, anzi, in particolare, lo stesso governo attuale, perché avendo i mezzi poi per fare pubblicità, non avrebbero paura di perdere persone. Guardiamo la campagna tesseramento che ha fatto Berlusconi, no? Sì. Il concetto è questo. Quindi però Marco, per capirci, lei non propone un meccanismo volontario e deducibile, no, come l'8 per 1000, no, cioè lei propone un meccanismo obbligatorio. Sì. Cioè, perché il cittadino italiano deve capire che la politica è obbligatoria, cioè è parte del vivere civile. Noi questa cosa l'abbiamo fatta in un condominio nostro, siamo 2000 persone, quindi lei si immagini gestirlo. No, abbiamo reso non mi invidio. è una cosa delirante, invece lo gestiamo perfettamente, perché con tutti quanti i condomini contribuiscono a pagare il comitato. E le garantisco che da quando le persone sono obbligate a pagarlo, lo controllano, partecipano ed è bellissimo. Grazie Marco, diciamo che la sua è un'idea molto, tra virgolette, platonica, ma nel senso, non nel senso, nel senso concreto, insomma, la Repubblica dei Guardiani, ecco, io diffido un pochino, però è un'idea, quindi adesso poi la gireremo ai nostri ospiti. Federico da Monza, prego Federico. Buongiorno, no, io volevo intervenire a proposito del referendum che aveva abrogato il finanziamento pubblico ai partiti, che forse era stato fatto in un periodo non proprio idoneo, nel senso che nel 93 in piena Tangentopoli dire al cittadino, a me compreso, se volevo togliere una legge che finanziasse i partiti, sono andato subito a firmare dicendo sono tutti dei ladri, non diamogli una lira. Forse è stato il periodo, cioè dire che abbiamo fatto un referendum in un periodo sbagliato, si potrebbe anche dirlo. E poi volevo anche dire, ma mi sembra che... Posso chiedere a Federico se secondo lei l'opinione che ha appena espresso, però molto rispettabile, io sono molto d'accordo con lui. Federico, lei è convinto che questa sua opinione sia davvero condivisa nella maggioranza dei concittadini? Cioè oggi la maggioranza degli italiani sinceramente ammetterebbe, come sta facendo lei, che quando ha dato il voto a quel referendum era molto coartato, emotivamente coinvolto nell'atmosfera di Tangentopoli, e che forse invece però il problema del finanziamento dei costi dei partiti va affrontato non con quell'emotività? Lei pensa che la maggioranza in un sondaggio si esprimerebbe in questo modo? Ma spero di sì, spero che la gente sia abbastanza onesta da riconoscerlo. No, Federico, però io le chiedo, se fosse vero, interroghiamoci insieme, se fosse vero quello che lei dice e che io auspicherei, perché poi ai sondaggi su Craxi otteniamo la risposta molto come allora, dicendo no, un ladro, un corruttore, morto in contumacia? Per carità, è verissimo che Bettino Craxi non è solo questo, sono tante cose, ero anticraxiano anch'io, per carità di Dio, ma voglio dire, le pare che ci sia davvero più serietà e che si sia depositato il polverone? Io tante volte ho l'impressione di no, Federico. Ma forse, allora, forse oggi non siamo ancora, non ci siamo ancora liberati di Tangentopoli, quindi magari oggi i risultati sarebbero ancora negativi, cioè abrogherebbero ancora un finanziamento pubblico ai partiti, perché ancora siamo le stesse persone di allora, quindi io ho sentito ieri a proposito della via di Craxi che un onorevole ha detto bisognerebbe farlo fra 50 anni la via Craxi, sì. Fra 50 anni si saranno depositati tutte le polveri, tutte le acque, e quindi avremo la mente più sgombra dai giudizi dati dall'emotività, e quindi probabilmente dovrebbero chiedercelo fra 50 anni se è giusto o meno finanziare un partito. Però intanto la politica, se non la finanziamo in maniera trasparente, sa, non ma posso, infatti, ma io sono d'accordo, oh. Ma guardi, io le dico, oggi io voterei per dare un finanziamento ai partiti, tanto lo darebbero lo stesso, cioè, per cui non ne vedrei. Ma tra l'altro io ho sentito prima l'onorevole Teodori, o comunque Teodori, che diceva che non si può, che lui farebbe un finanziamento lecito ai partiti detraibile, ma mi sembra che sia già così, ci sia la possibilità di finanziare partiti politici e detrarlo dai redditi. Io faccio il commercialista, non ho mai visto una persona che abbia finanziato un partito, ma cioè, non ho mai visto questo tipo di detrazione, ma mi sembra che nel modulo fiscale sia previsto. Adesso... Certamente, ma con Teodori torneremo nello spiegare qual è la differenza di un intero sistema che prende la strada che chiede il professor Teodori, la strada di una grande democrazia liberale anglosassone. Ancora Marcello da Roma, prego Marcello. Buongiorno, io sostengo pienamente il sistema anglosassone, vado oltre anche quanto diceva il vostro... il vostro esperto, nel senso che secondo me andrebbe preso proprio alla lettera, si paga soltanto per ciò che si vuole, punto. Soprattutto bisognerebbe chiedersi oggi se questa politica è veramente necessaria, così pesante come abbiamo in Italia, perché è chiaro che se si parte dal fatto che questi politici servono, si arriva per forza alla conclusione che in qualche modo vanno finanziati, ma serve veramente una politica così invadente come c'è in Italia oggi? Perché io credo che oggi si faccia politica andando un po' al supermercato, se si vola Ryanair o Alitalia, se si compra GM biologico, se si mettono i pannelli solari o non si mettono nella propria casa. Per cui anche il rapporto col politico, col partito, che va visto come una persona che offre dei servizi alla comunità, dovrebbe essere di tipo volontario o di tipo mercatistico. Ecco, ecco, si paga ciò che si prende ciò che si paga. Naturalmente è una espressione un po'... scivolosa quando stiamo parlando della politica, perché si rischia di arrivare a pagare i partiti solo di ottenerne in cambio delle cose, quindi bisogna disciplinare. Teodori, può un secondo approfondire meglio per i nostri ascoltatori? Lo dico anche perché abbiamo molti sms che dicono, ma in realtà si può già fare quello che dice Teodori, quindi in che cosa consiste la novità? No, non è vero che si può già fare. E il problema, la differenza fondamentale fra quello che oggi si può fare in maniera molto difficoltosa è il fatto che oggi il passaggio è dal cittadino allo Stato e dallo Stato al partito, mentre il criterio completamente diverso, cioè quello che reintroduce una libertà del cittadino e soprattutto sgonfia lo Stato, è quello di passare direttamente il denaro dal cittadino al candidato, dal cittadino al partito o dal cittadino al movimento, e tutto questo può essere incrementato e può essere facilitato, dipende dal meccanismo di deducibilità, cioè se a me è conveniente dare i miei 1000 euro o 10.000 euro o 100.000 euro in termini fiscali e lo posso fare direttamente alla persona, al partito, all'idea, al movimento che a me piacciono, io lo faccio. Quindi il problema della realizzabilità di un sistema del genere dipende dalla facilità del meccanismo e della convenienza che ciascun cittadino ha, ma quello che noi reintroduciamo rispetto a uno Stato pesante che decide, attraverso cui passa tutto, di eliminare il passaggio dello Stato e andare direttamente a sostenere, come oggi noi facciamo con tante piccole cose che ci piacciono. E si può fare, organizzare un sistema del genere. Naturalmente sistemi del genere vanno poi calibrati sperimentalmente, vanno controllati e via di seguito, però il punto fondamentale è che io, signor Mario Rossi, per il partito arancione glielo do direttamente, dopodiché sconto le cose che glielo do nella mia dichiarazione dei redditi, e si evita questo Stato che fa tutto, che inventa i partiti, che finanzia i giornali, che finanzia qualsiasi cosa e via di seguito, e reintroduciamo un elemento di libertà rispetto a un elemento di statalismo. Io so di sfondare una porta aperta con il nostro coordinatore. Sì, con il conduttore sì, non so che sono con la maggioranza degli italiani o dei nostri ascoltatori. Forse, speriamo. Ma gli italiani capiscono questa cosa. Poi l'italiano è anche abbastanza anarchico e abbastanza individualista per capire che se la cosa gli conviene, no, e funziona. Lo dico Teodori, perché puntualmente anche stamattina io ricevo una quantità di messaggi che dicono: caro Giannino, lei è scandalosamente di parte, caro Giannino, lei non ha invitato l'Italia dei Valori, caro Giannino, lei non ha invitato un parlamentare della PDL, caro Giannino, lei non ha invitato la sinistra buttata fuori da questa orrenda legge elettorale. Cioè, guardate che io per esperienza constato che la maggioranza dei nostri ascoltatori, una fetta molto ampia, non voglio qualificarla numericamente, oramai è convinta che ogni confronto di idee sia una tribuna elettorale in cui conta la percentuale dei partiti presa alle elezioni. Guardate che abbiamo abituato gli italiani a questa idea dannata e un po' delirante, per cui io invece no, io ho scelto di chiamare qua un esponente che si batte apertamente, come l'onorevole Sposetti, ex tesoriere dei DS, per un finanziamento trasparente della politica che corrisponda all'importanza che la politica ha nella nostra Costituzione, e per questo propone apertamente, senza nascondersi dietro un dito, un meccanismo in cui a diritti corrispondono dei doveri con un regime di finanziamento ordinario, e l'onorevole Teodori, professor Teodori oggi, non più onorevole, che si batte per un'idea liberale, e Sergio Rizzo che è un campione dell'informazione che su questo morde i garretti a chiunque. Mi sembra un confronto più ordinato, lo dico per tutti gli sms che continuano a insultarmi anche oggi, perché a me tutto sommato, di confondere questo tema con le convenienze politiche attualmente dell'onorevole Di Pietro o dell'UDC o di Berlusconi o di chiunque sia del PD, non mi importa. Mi importa consentire a chi è in ascolto di capire che abbiamo accumulato una legislazione contraddittoria, convergente tra tutti i partiti, che poi li smutanda rispetto a quello che dichiarano, perché ciascuno dice di voler ritagliare questi costi, non li tagliano mai, sinistra, destra, eccetera. Perché? Perché si perdono di fondo il confronto tra alcuni criteri, come quello che secondo me rappresenta Sposetti da un'altra, Teodori dall'altra e Rizzo come giornalismo cane da guardia. Ed è tutto qui la mia scelta di oggi. Allora, vorrei chiedere a Sergio Rizzo, in realtà, in che cosa sbagliamo anche noi dell'informazione, perché sbaglieremo anche noi qualche cosa se poi alla fine sti politici da una parte fanno propaganda, campagne elettorali, promettono in finanziaria e dall'altra appena è votata la finanziaria, come ci ha detto Calderoli ieri, beh vabbè i tagli noi li rinviamo ancora di un anno. È durata 24 ore la questione dei tagli agli enti locali nella finanziaria 2010, tranne ulteriori smentite lo stesso Calderoli. In che cosa sbagliamo secondo te noi? Ma secondo me noi abbiamo sbagliato in passato molto. Abbiamo sbagliato nel non incalzare la politica su questo terreno qui, dando per scontato, sì, vabbè, che tanto la politica costava e quindi vabbè, no? Cioè, era un fatto quasi trattato come un fatto di colore. Per tanti anni la questione dei finanziamenti alla politica è stata derubricata un fatto di colore, mentre invece, come dire, anche dai giornali, questo è dai grandi giornali, non soltanto dalla... così dall'opinione pubblica spicciola, diciamo, era considerato quasi un fatto di gossip, non so come dire, no, quello che il termine che oggi va tanto di moda. In realtà quello era proprio un elemento cruciale invece della qualità della politica in Italia, e abbiamo sbagliato anche dopo Tangentopoli nel non prendere maledettamente sul serio questo problema qua. Ha ragione quell'ascoltatore il quale ha ricordato che il referendum venne promosso in un momento forse sbagliato, forse emotivamente sbagliato, e che poi tutto quello che è accaduto in seguito è accaduto sull'onda, come dire, di un'ipocrisia che non è mai stata risolta. No, ma voglio soltanto tornare su una cosa che ha detto Teodori, no? È stato già fatto questo. C'è stata una legge nel 98, e Sposetti la ricorda bene, che prevedeva un finanziamento del 4 per 1000, analogamente come avviene per il 5 per 1000 o l'8 per 1000, per i partiti. Bene, non si è mai saputo, anche perché poi quella legge giustamente venne abolita, nel senso che nessuno ha mai saputo quanto effettivamente quella legge lì ha reso ai partiti, e anche perché era previsto un meccanismo di restituzione, cioè era stabilito un plafond, mi sembra, di 110 miliardi all'anno, e nel momento in cui questo plafond fosse stato superato dai versamenti volontari dei cittadini, i partiti avrebbero dovuto restituire allo Stato l'eccedente. Ebbene, non si è mai saputo, no? Quanti soldi siano stati dati dai cittadini ai partiti in quel modo. Io feci una stima una volta, ma diciamo una stima spannometrica basata sui dati Istat della partecipazione cittadina alla politica, e secondo me non andarono più di 20 miliardi l'anno, quei due anni, 98 e 99, se non sbaglio devono essere quelli due anni, se lo ricorderà bene Sposetti. Altro fatto, esiste già, Teodori insiste, ma guardate che esiste già la possibilità di dare direttamente i soldi privatamente ai partiti e ai singoli candidati, basta andare alla Camera e vedere le dichiarazioni rese appunto alla Camera delle cosiddette erogazioni liberali. Guardate che c'è anche un meccanismo di deduzione fiscale scandalosamente favorevole già, perché prevede la deducibilità del 19% fino ad un tetto massimo di 103.000 euro. Questo vuol dire che chi versa 100.000 euro ad un partito o un candidato può risparmiare dalle tasse 19.000 euro ed è 51 volte più favorevole alla deducibilità fiscale che si ha nei confronti dei versamenti, che ne so, per l'associazione per la leucemia, cose di questo tipo. Ci sono state anche proposte di legge recentemente che hanno tese, diciamo, quantomeno ad equiparare questo trattamento fiscale, e ovviamente non sono state mai prese in considerazione. Una addirittura firmata, pensate, da Alemanno e Di Pietro alla fine della scorsa legislatura. Ecco, in materia di convergenza, ti interrompo perché c'è l'informazione, siamo già in ritardo di un minuto e mi scuso, sulla circolazione stradale. 9 in punto, la versione di Oscar. Eccoci tornati in studio, ancora due telefonate, poi una domanda per Ugo Sposetti. Gianfranco da Savona, prego, dica Gianfranco. Buongiorno, volevo parlare, cioè dire al signor Teodori, riferendomi anche a quel 19% solo di detrazione dalle imposte, che personalmente sono per il finanziamento pubblico, ma nessuna convenienza si avrebbe appunto perché sul finanziamento privato, proprio perché si detrae solo 19%. Quindi io avrei un'altra proposta, vorrei magari porla a Teodori per vedere che cosa ne pensa, e cioè se Di Pietro ha speso, dichiarando ha speso 3 milioni e ne prende 31, perché lo Stato non dice hai speso 3 milioni, te li rimborsiamo tutti e ti diamo magari anche il 10, 15, 20% in più, considerando che comunque per spendere 3 milioni ha avuto il suo numero di deputati, i quali guadagnano comunque un bello stipendio e possono dare, come ci sono molti partiti che lo fanno, un contributo al partito. Grazie. Per la precisione, ha dichiarato 3 milioni e 440 mila euro l'Italia dei Valori per le politiche del 2008, ha incassato 21 milioni, non 31, 21 milioni 649 mila. Piero da provincia di Forlì, prego. Buongiorno, senti, io premetto, sono contrario a qualunque finanziamento politico con nome e cognome, perché se io contribuisco con 100 mila euro a un candidato col nome e cognome, indirettamente pretendo, tra virgolette, qualche favore, e innescheremo un vortice molto molto pericoloso di cui ne siamo usciti, tra virgolette, una decina d'anni fa. Sono più propenso a finanziamento. Piero, ne siamo usciti? No. Ah, ecco. No, però ho detto fra virgolette. Ah, ecco, no, no, infatti. Fra virgolette. Sono favorevole a un finanziamento anonimo, un 3, un 4% come si parlava dello Stato, e questo viene distribuito ai partiti. Sono sempre per il finanziamento anonimo, non con nome e cognome. Capito. Grazie. Prego, Ettore da Roma. Prego, Ettore. Eccomi. Niente, il problema è semplice, nel senso che per molti anni non c'è stato il finanziamento pubblico dei partiti e le cose sono andate come sono andate, insomma. Fino al 74. Fino al 74. Poi abbiamo introdotto il finanziamento pubblico dei partiti e gli scandali si sono aumentati, a cominciare da questo scandalo vergognoso di calcolare il finanziamento non in base alle spese effettuate, ma in base ai voti presi, come se fosse un premio che la comunità ha la possibilità di dare, come se fosse un premio, visto che abbiamo tanti soldi da erogare, e invece diamo. E questo mi pare sbagliato. Ecco, allora, e invece? A prescindere che dall'articolo della Costituzione che permette, autorizza e anzi dice che è un diritto fare dei partiti, è come se uno dicesse hai diritto a fare un'impresa, i soldi te li do io. No, non ha, ne ha nessun senso, nel senso, se tu hai l'autorizzazione dati i partiti, benissimo, però i soldi ti posso aiutare, ma non che ti copro e addirittura con un avanzo. Perché quindi lei dice, nessun finanziamento pubblico, né diretto né indiretto dai cittadini o dello Stato, o gli iscritti, così? Esatto, ecco, esatto. Vabbè. Al massimo un contributo, se per esempio si scopre che, non so, i finanziamenti degli iscritti sono insufficienti. Ma insomma, Ettore, questo significa però che chi poi obietta, benissimo, come insegna l'anomalia Berlusconi, a quel punto la i magnati possono più di tutti gli altri, perché i magnati possono finanziarsi campagne elettorali anche da centinaia di milioni di euro, da decine di milioni di euro, e questo è un elemento di fronte al quale obiettivamente ci andrei un po' piano. Io sono per il libero mercato, effettivamente, però non possiamo accettare l'idea che veramente tutto possa essere sfalsato dal principio per cui esclusivamente con il denaro libero si possa determinare anche una maniera di, tra virgolette, comprarsi il consenso. Questo è un problema aperto anche per un mercatista, secondo me. Io poi sono per la scelta del modello anglosassone. Anche per il modello anglosassone, che cosa rivela? Non ci sono scandali negli Stati Uniti? Pieno di scandali. La differenza però è che i politici, quando mentono in pubblico su forme non dichiarate, di vicinanza a lobby rispetto a tutte quelle che hanno dichiarato, perché lì le dichiarano, sono costretti a dichiararle, c'è un Parlamento pieno di lobbisti, la cosa avviene sotto gli occhi di tutti, questa è la differenza, avviene sotto gli occhi di tutti il contrasto, il conflitto di interessi. Quando poi il politico mente su un interesse che esce in più, aggiuntivo o diverso rispetto a quelli che ha dichiarato, va a casa, perché perde la faccia, tutto qui, perde la faccia, c'è una sanzione reputazionale per cui la sua carriera politica va incontro a incidenti terribili. Noi invece fingiamo che questi interessi non ci siano, continuiamo a vivere in una cosa non troppo cambiata rispetto a Tangentopoli, secondo me. Questo non credo di dover, non è mancare di rispetto a niente, a nessuno, né ai magistrati né alle terre di valori. Io non credo che ci sia stata questa grande rottura di continuità. Credo che ancora oggi, se un leader politico si alzasse in Parlamento e facesse un discorso come quello che fece troppo tardi ma coraggioso Bettino Craxi, dicendo guardate che qua dentro sapete tutti voi leader di partito che cosa facciamo, anche oggi se qualcuno si alzasse per farlo resterebbe privo di echi, come restò quello di Bettino Craxi, e poi finì come finì, come restò privo di echi quando lo fece tanti anni prima, cosa che portò al finanziamento del partito nel 74, Ugo La Malfa, che disse sì, io ho preso dei soldi dal petrolieri e me ne prendo la responsabilità perché non sapevo come pagare il mio partito. Anche in quel caso tutti dissero ah, Ugo La Malfa, Ugo La Malfa. Ecco, il problema è che una democrazia in cui il conflitto e il contrasto di interessi non si dichiarano apertamente, si disciplinano apertamente, vive nell'ipocrisia. Allora, la domanda per l'onorevole Sposetti è questa: si è dissipata quel po' di ipocrisia per cui se si alza un leader di partito e dice guardate che i soldi sono questi e servono a questo, tutti gli altri stanno zitti? Lo dico perché la mia impressione è che tanto nel centrodestra ci sia un'anima su questo finto taglio giustizialista, perché poi di fatto non vedo niente quando governa di tagli veri dalle province eccetera, e temo che per la sinistra un problema di vicinanza, di presenza nella sinistra di una parte di filone che continuano a ragionare un po' giustizialista ci sia. Mi sbaglio, onorevole Sposetti? Ma guardi, passi in avanti sicuramente ne abbiamo fatti. La normativa modificata, qui ci sono delle cose, la trasmissione non ci consente di entrare nel merito di alcune cose dette. Rizzo ha parlato della legge del 97, quella del 4 per 1000, le dichiarazioni di redditi, ha ragione lui, quella non ha funzionato. Io cercai, quando mi hanno chiamato a fare il tesoriere alla fine del 2001 e 2002, la norma di cui oggi discutiamo, quella che aumenta i rimborsi elettorali, perché questo ha consentito di dare un veramente ossigeno alla democrazia italiana, alla politica. Io di questo ne vado, lo difendo il lavoro che feci in quei giorni e che poi fu approvato dal Parlamento, allora io non ero parlamentare. E, le cose come stanno? Noi dobbiamo fare in modo che questa legislatura attui l'articolo 49 della Costituzione. Poi, se è il modello anglosassone, se è il modello tedesco, come io sostengo, questo non è adesso il punto di rimente. È l'attuazione dell'articolo 49. L'attuazione dell'articolo 49 affida ai partiti, ai movimenti politici una funzione pubblica. Allora, la discussione che lei ha ricordato all'inizio, Mortati, Togliatti, Laconi, Moro ed altri, la discussione, uscivamo dal fascismo, era sul controllo della vita interna dei partiti, il punto di discussione, e fu tolto anche la parte del finanziamento, perché l'articolo originario non era così come poi sì, quello che noi conosciamo, perché aveva il controllo della vita democratica e risorse per i partiti, ma eravamo nel 47. Io ritengo che oggi si debba mettere mano a regole per la vita democratica, così come è stato detto e non ripeto, della vita democratica interna dei partiti, regole e soglie per i rimborsi e per i soldi per la politica, perché poi si chiameranno in un altro modo se attuiamo la norma, e la partecipazione dei cittadini alle spese dei partiti. Rizzo, mi dispiace, non è come dici tu. Ohimè, dobbiamo fare un approfondimento in un'altra puntata, perché se lei a questo punto dice non è Rizzo eccetera, io non posso dare poi la replica a Rizzo, e mi sarebbe piaciuto, e ne faremo per questo sicuramente un'altra puntata, anche un approfondimento con Teodori, perché c'è da riflettere anche su cosa i liberali hanno come responsabilità se poi questa visione di una svolta anglosassone per il finanziamento e resta sempre minoritaria. Io ricordo solo a chi ci ascolta che una svolta per il sistema tedesco, se significa tra l'altro che diamo 133 milioni di euro ai partiti l'anno e non i 295 che diamo in Italia, mi sembrerebbe comunque un bel passo avanti. In Francia 80 milioni di euro l'anno ai partiti, in Spagna 75, in Gran Bretagna 4 milioni 900 mila. Queste sono le cifre, però bisogna parlarne al di fuori delle ipocrisie. Bene, abbiamo finito il tempo anche per oggi, io ringrazio Ugo Sposetti, Massimo Teodori e Sergio Rizzi, e in regia Paolo Corleoni, in redazione Alessandro Marcotulli, e ringrazio naturalmente tutti voi che avete ascoltato la linea al giornale radio. Appuntamento a domani, ultimo dell'anno. Radio 24, la passione si sente.